Ventunesimo canto del Purgatorio, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrata da Pierre. Purgatorio. Ventunesimo canto. La sete natural, che mai non sazia, se non con l'acqua, onde la femminetta samaritana domandò la grazia, mi travagliava, e pungeami la fretta per l'ampacciata via dietro al mio duca, e condoleami alla giusta vendetta. Ed ecco, sì come ne scrive Luca, che Cristo apparve a due che erano in via, già surto fuor della sepolcral buca ci apparve un'ombra, e dietro a noi venia, dal pie guardando la turba che giace. Ne ci addemmo di lei, si parlò pria dicendo: «O frati miei, Dio vi dea pace!» Noi ci volgemmo subiti, e Virgilio rendeli il cenno, cacciossi con face. Poi cominciò: «Nel beato concilio ti ponga in pace la verace corte, che me rilega nell'etterno essilio.» «Come?» diss'elli, e parte andavan forte. «Se voi siete ombre, che Dio su non degni, chi va per la sua scala tanto scorte?» E il dottor mio: «Se tu riguardi a segni che questi porta e che l'angel profila, ben vedrai che coi buon convien che e regni. Ma perché lei che dì e notte fila non gli avea tratto ancora la conocchia che Cloto impone a ciascuno e compila, l'anima sua, che è tua e mia serocchia, venendo su non potea venir sola, però che al nostro modo non adocchia. Ond'io fui tratto fuor dell'ampia gola d'inferno per mostrarli, e mostrerolli oltre, quanto il potrà menarmi a scola. Ma dimmi, se tu sai, perché t'hai crolli die dinanzi il monte, e perché, tutto ad una, parve gridare, infino a suoi pie molli? Sì mi die, dimandando, per la cruna del mio disio, che pur con la speranza si fece la mia sete men digiuna. Quei cominciò: «Cosa non è che senza ordine senta la religione della montagna, o che sia fuor d'usanza. Libero è qui da ogni alterazione. Di quel che il ciel da sé in sé riceve, esserci puote, e non d'altro, cagione. Perché non pioggia, non grando, non neve, non rugiada, non brina più su cade che la scaletta di 3 gradi breve. Nuvole spesse non paion né rade, né coruscar né figlia di Taumante, che di là cangia sovente contrade. Secco vapor non surge più avanti che al sommo di 3 gradi che io parlai, dove ha il vicario di Pietro le piante. Trema forse più giù poco o assai, ma per vento che in terra si nasconda, non so come, quassù non tremò mai. Tremaci, quando alcuna anima monda, sentesi, sì che surga o che si muova per salir su, e tal grido seconda. Della mondizia sol voler fa prova, che, tutto libero, a mutar con vento, l'alma sorprende, e di voler le giova. Prima vuol ben, ma non lascia il talento, che divina giustizia, contra voglia, come fu al peccar, pone al tormento. E io, che son giaciuto a questa doglia 500 anni e più, pur mo sentii libera volontà di miglior soglia. Però sentisti il tremoto, e li pii spiriti per lo monte render lode a quel signor che tosto su li invii. Così ne disse, e però che il si gode tanto del ber, quant'è grande la sete, non saprei dir quant'el mi fece prode. E il savio duca: omai veggio la rete che qui v'impiglia, e come si scalappia, perché ci trema, e di che congaudete. Or, chi fosti, piacciati ch'io sappia, e perché tanti secoli giaciuto qui sè, nelle parole tue mi cappia. Nel tempo che il buon Tito, con l'aiuto del sommo rege, vendicò le fora, onde uscì il sangue per Giuda venduto, col nome che più dura e più onora, era io di là, rispose quello spirito, famoso assai, ma non con fede ancora. Tanto fu dolce mio vocale spirito che, Tolosano, a sé mi trasse Roma, dove mertai le tempi ornar di mirto. Stazio, la gente ancor di là mi noma, cantai di Tebe e poi del grande Achille, ma caddi in via con la seconda soma. Al mio ardor fuor seme le faville che mi scaldar della divina fiamma onde sono allumati più di mille, dell'Eneida dico, la qual mamma fummi e fummi notrice poetando, sanz'essa non fermai peso di dramma. E per esser vivuto di là, quando visse Virgilio, assentirei un sole, più che non deggio al mio uscir di bando. Volser Virgilio a me queste parole, con viso che tacendo disse, taci, ma non può tutto la virtù che vuole, che riso e pianto son tanto seguace la passion di chi ciascun si spicca, che men seguon voler né più veraci. Io pur sorrisi, come l'uomo ch'ammicca, perché l'ombra si tacque, e riguardommi negli occhi ove il sembiante più si ficca, e se tanto labore in bene assommi, disse, perché la tua faccia, testeso un lampeggiar di riso, dimostrommi? Or son io, d'una parte e d'altra preso, l'una mi fa tacer, l'altra scongiura ch'io dica, ond'io sospiro, e sono inteso dal mio maestro, e non aver paura, mi dice, di parlar, ma parla, e digli quel che dimanda con cotanta cura. Ond'io, forse che tu ti maravigli, antico spirito, del rider ch'io fei, ma più d'ammirazion vo che ti pigli. Questi, che guida in alto gli occhi miei, è quel Virgilio, dal qual tu togliesti forte a cantar degli uomini e di dei. Se cagion altra al mio rider credesti, lasciala per non vera, ed esser credi quelle parole che di lui dicesti. Già s'inchinava ad abbracciar di piedi al mio dottor, ma egli disse, frate, non far, che tu sei ombra, e ombra vedi. Ed ei surgendo, or puoi la quantità te comprender dell'amor che a te mi scalda, quand'io dismento nostra vanitate, trattando l'ombre come cosa salda. Fine del 21° canto del Purgatorio.